Carissimi amici di Runtime, bentornati a questa nuova puntata di OGM, oltransisti gastricamente maleducati, che è l'appuntamento che una volta era settimanale, invece adesso lo facciamo quando ci pare, perché rientriamo nello spirito delle cose di Runtime Radio, che promette una live, almeno una live al giorno, per insomma tutto il periodo di quarantena. Quindi ringraziateci e soprattutto apprezzate il nostro sforzo, che stiamo facendo veramente, no, scherzi a parte, lo stiamo facendo per stare noi in compagnia e per fare stare in compagnia voi se ci seguite, anche se ho visto che in chat non mi pare che ci sia ancora nessuno. Sì, infatti volevo salutare gli amici in chat. C'è gente. Quindi salutiamo Walter Sbano. Buonasera di nuovo, dicevo, lo prendo con seraficità, con filosofia, perché se mi comincio a incazzare a sto giro, anche perché oggi mi sono trovato ad avere un po' un lungo scambio di vedute con un paio di renziani su Twitter, poi magari vi racconto. Ah, sì, poi De Renzi ne diciamo qualche cosa. E c'è anche, ovviamente, appostato dal suo balcone, c'è Walter, no, Marco Gualdi, scusate. È il coronavirus che mi ha preso. Il coronavirus, sicuramente stai male. No, dicevo che praticamente, ricapitolando, il cielo è uggioso, è grigio, ci sono quattro cassonetti di fronte a casa mia, sono messi in ordine, sembrano chiusi bene ermeticamente. Il negozio del Bangladesh è aperto, cioè l'insegna luminosa che incita all'entrata e all'acquisto. Entra. Nel frattempo posso dire che è passato un merlo, attenzione, molto velocemente, è stata una visita fugace, però è passato ed è scomparso dietro a un tetto. E in questo momento invece le fasi di gioco sono normali, cioè non succede nulla di particolare. Ok, quindi è la partita stagna. Esatto, se succederà qualche cosa mi prendo insomma l'impegno di interrompere lo studio con le novità. Interrompi lo studio quando vuoi dal Cibali, ma quindi praticamente rispetto alle altre volte la situazione da questo punto di vista è migliorata? Statica, sì, è più statica. Devo dire che comunque la perdita sotto casa mia continua ad esserci come al solito, quindi esco nettolitri di acqua e quello è rimasto. Ma adesso trovano idraulico che ti viene a risolvere i problemi, quindi insomma che Dio ci salvi. Ma ci abbiamo anche con noi un altro membro, insomma oramai membro adottato, amico, compare di viaggio, che è Carmine Puccio Consol. Membro mi piace tantissimo, mi piace, è un membro, sì. Ricordi, sì, decisamente, ragazzi. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, calcolando che sono le 17:07, io non ho la vista sul supermercato straniero né sui cassonetti. Gli unici cassonetti che ho visto passare oggi sono le figlie di alcuni miei vicini qui da Putignano, provincia di Bari. Devo dire, giornata soleggiata, temperatura piacevole, o almeno lo sarebbe se potessimo uscire di casa, però esatto. No, qui confermiamo anche qui Sbano che è grigio, è uggioso, qui, sì, è uggioso, fa un po' meno freddo degli altri giorni. Ma è grigio per abituarci al fatto che noi, stando dentro casa, ci stiamo praticamente arrendendo ai grigi che stanno invadendo la terra. Perché questo ho letto in giro cose. Lasciamo, ho letto cose in giro. Si stanno bizzarrendo. Esatto, vi suggerisco. Che poi io pensavo, dico, vabbè, vedrai che. Infatti, i primi giorni di pandemia, meno male, la gente era un po' sotto shock. Poi la noia li riporta a distronzate. Vi suggerisco, se siete insomma appassionati su YouTube, andatevi a cercare Neurodrom, che tra l'altro ho scoperto c'è anche un secondo canale. Che Neurodrom praticamente ha fatto un ultimo video e veramente lì c'è da incazzare. Lì anche lui che ci rideva sopra, però ha detto: poi smetto perché sennò mi incazzo. Cioè, nel senso, veramente. Ma cose io grazie da a Neurodrom ho scoperto l'esistenza di cialtroni che io giuro ignoravo completamente. Non so se forse stavo meglio prima. Tipo Tinelli, dici? Sì, non lo conoscevo. No, Dino Tinelli è. Ma poi lui è. Ecco, lui secondo me è uno di quelli da andare a strappare la gola proprio. Cioè, perché. Non solo è un cialtrone, in realtà lui non è un cialtrone, secondo me il suo lavoro lo fa sistematicamente, perché oramai sa che qualsiasi cosa lui dice, lui ci guadagna soldi, purché siano cazzate, ed è passato dalla terra piatta all'eugenetica, a Hitler amava i cani, alla iperreligione, fino adesso praticamente lui ha uno strumento che misura la vibrazione sonica delle cose, e il virus praticamente vibra come la paura, e quindi se tu c'hai paura la vibrazione sonica del cazzo probabilmente, esatto. magari la vibrazione sonica, però comunque niente, praticamente non è tanto lui che si dice ste stronzate, è praticamente la sua assistente, quella che dice di essere la sua assistente, che mette le foto in giro dicendo vedi sono in giro, vedi sono in giro, invece sono tutti dei fotomontaggi, cioè sono foto di altri, quindi immagina, e incita la gente a uscire di casa perché non è vero niente. In più c'è, vabbè, c'è stata l'immagine insomma di sta tizia che lavora sulle ambulanze, che guida le ambulanze, che ha fatto delle dichiarazioni che veramente sarebbe da denuncia, insomma. Vabbè, raga, cioè, nel senso, lui ha detto, cioè, se io non è compito mio, però se qualcuno sa di chi sto a parlare, insomma, fate le vostre denunce, perché qui stiamo proprio oltre il limite, insomma, della decenza. Però Simone, ecco, non ho capito, quindi sostanzialmente il coronavirus è come i cani, se percepisce la paura ti azzanna. No, cioè, praticamente, allora, praticamente le cose hanno una loro vibrazione quanto suo. Sì, l'ho imparato nei fumetti di Flash. Ok, detto questo, io l'ho imparato in South Park, le vibrazioni delle scorrenze. E praticamente lui c'ha questo strumento, adesso io non me lo ricordo perché l'ho visto il video, poi io sono andato lì perché io sono infame, ho segnalato tutti i video, ho segnalato il canale, quindi poi dopo glieli tirano giù sta roba, soltanto che lui poi si rende conto quando arriva al limite, prende i video quelli più incriminati, li leva dal canale, così gli si abbassa il livello dei warning, perché sennò gli buttano proprio giù il canale a questo, capito? Però vabbè, detto questo, lui dice che c'è sta vibrazione, le cose hanno la vibrazione e la paura c'ha una vibrazione pari a zero praticamente, e se tu c'hai paura e la tua vibrazione è pari a zero, praticamente esponi il tuo organismo all'infezione del coronavirus, perché ovviamente lui c'ha una vibrazione più alta. Cioè, ci fa notare lobby frontali, tutto un pippone assurdo, quando in realtà si poteva semplicemente dire che lo stress indebolisce il sistema immunitario rendendoci più vulnerabili alle infezioni. Ma, ma non è quello che intende di lui, cioè lui tende a dire delle cose esotico fantascientifiche, perché sono quelle che tutti quei mezzi scoppiati paranoici che gli vanno dietro vogliono sentire. Attenzione, chiedo la linea allo studio. Prego. Un merlo è atterrato sul terrazzo del negozio di fronte e sta bevendo avidamente da una pozzanghera. Ma è un merlo che fa a me? Non lo so, non so, era zitto, adesso è uscito di scena. A voi la linea. Vabbè, comunque io partirei Marco, la vibrazione dal merlo, sei riuscito a percepirla? No, non c'ha, lui no, non c'ha il vibro nodico. Ovviamente era più di zero perché non era un vibro. Ah, vabbè, perché è un uccello. Il vibronomicon. Esatto, il vibronomicon. E allora, però, a questo punto, Puccio, però, cerca di trovare un modo per uscire dalla bottiglia. Che da dentro la bottiglia sei. Aspetta, che ho trovato. Ecco, vai. Ecco, bravo. Bravo, così ci piaci. Così ci piaci benissimo. Bravo, ho tolto il salvapì dal microfono, scusa. Allora ragazzi, voi sapete che c'è stata anche una polemica, no, su quello che Boris Johnson ha dichiarato durante le settimane, no, quando lui fece quella famosa dichiarazione dove preparatevi a seppellire i vostri cari, che pare che in realtà poi alla fine questa dichiarazione non era proprio così, cioè nel senso non voleva essere così scioccante, ma voleva essere, cioè nel senso stringiamoci, uniamoci in questo momento difficile perché purtroppo succederanno queste cose ed è inevitabile, no? In realtà poi noi infatti faremo uno speciale lunedì sera proprio su questo, intervistando persone che vivono in Inghilterra. In realtà poi alla fine anche qui c'è la controsmentita, che pare che proprio lui ha proprio detto così, no? Cioè ha detto preparate per seppellire i vostri cari, sottovalutando il problema inizialmente, poi gli è esploso ovviamente in casa, e è esploso talmente in casa che pare che pure i membri della famiglia reale, insomma, non è che stava andando bene, no? Il che può essere un grosso problema per Boris Johnson, insomma, perché hai sottovalutato talmente tanto che se puta caso te muore uno dalla corona, secondo me so cazzi sua sta botta. C'è da dire che la corona si tutela per sé, nel senso che, come dire, magari non spettava proprio, diciamo, al governo in quel caso specifico, perché comunque la vita di relazione dei nobili è assolutamente, come dire, avulsa dalla vita del popolo. Sì, però la gestione politica del problema rimane, cioè comunque noi sappiamo la corona è rappresentativa costituzionalmente, non è, cioè nel senso, comunque se il governo decide che devono essere adottate determinate misure, la corona non è che può fare, cioè, no, noi siamo la corona, fa un cazzo ci pare, no? Ah, siccome che loro hanno sottovalutato questo problema all'inizio, un po' con questa arroganza britannica, e poi, raga, questi veramente hanno fatto delle scelte storiche con una tempestività fuori dall'universo, insomma, cioè, vabbè, comunque, ecco, che insomma, che voglio sapere le vostre opinioni a giro, insomma, su sta questione del povero Boris, che insomma era uscito forte dalle elezioni, vedi che noi siamo British, noi siamo l'impero britannico, e poi alla fine insomma si trovano con un grosso... Ma io prima di tutto vorrei chiedere, ma non ce l'abbiamo una sigla per Boris, tipo gli occhi del cuore, gli occhi di quando parliamo di lui, cioè, non, guarda, non... la procureremo per le prossime puntate a questo punto, insomma, scusa, perché ha sostituito Trump proprio, come dire, di peso. Eh sì, se ce l'avevamo per Trump ce la dovremmo avere, quindi chiediamo al nostro amico Vargion se insomma se gli va di farci una sigla per Boris, quindi gli occhi di Boris. Tra l'altro io ieri sera sono stato ospite degli amici di New Game Plus, che ci hanno delle sigle, degli stacchetti, cioè da panico, cioè ho provato dell'invidia, adesso voli, cerco di coptarli di... dobbiamo costringere e coptare il buon Carlo Burigana, che adesso che sta a casa magari riusciamo a, come dire, a lavorarcelo ai fianchi. Eh sì, può essere. Dicevi, Gualdi? Abbiamo sempre quegli effetti fatti con i nostri corpi fisici, con le ascelle, con le cose, cioè migliore di quelli. Spano non è d'accordo. Ci tarpa le ali con la nostra creatività, perché sarebbe stato bello. Giustamente dice: signore e signori, benvenuti a OGM. Capito? Gli assets fatti organicamente è anche originale, tutto sommato. Ora Sbarro non condivide, vero Sbarro? Tu non condividi? Beh, sono un po', come dire, mi sembra un po' un repress di qualcosa già fatto da, in quelle radio popolarette, sai, quelle nazionali. Non lo so, mi sembrava, non mi sembrava originale, okay. Va. No, no, no, vabbè, può essere pure, però insomma, oh, alla fine, in mancanza di altro, sai come si dice, di necessità si fa virtù. Insomma. Abbiamo lo sponsor. Quindi, carta da, quindi, culo. Esatto. Quindi tu, Sbano, cosa ne pensi del povero Boris? Cioè che, insomma, cosa, guarda, la mia opinione non si può abbassare ulteriormente, perché secondo me, ora, al di là del caso specifico, lui è arrivato a comandare un paese in un momento di caos assoluto, dopo che la sua come si dice al femminile predecessore? Chi mi aiuta? Oh, predecessore femmina. Esatto, la, prima che la sua predecessora. Predecessora fa schifo, dai. Teresa May ha fallito, ha rifallito, ha strafallito. A un certo punto, come dire, ha dovuto concettualmente abdicare, nel senso, ha dovuto rassegnare le dimissioni. E lui è arrivato forte del fatto che era fondamentalmente sponsorizzato dagli Stati Uniti. Perché poi diciamocelo, lui sembra veramente nato da una costola di Trump. E ha un obiettivo, cioè lui è stato messo lì, si è messo lì, lo hanno messo lì, vediamola come ci pare, per un compito: portare a termine da un punto di vista formale la Brexit. Nessuno, lui per primo, si sarebbe mai immaginato che poi ci sarebbe stata da gestire un'epidemia, anzi una pandemia, che diciamo la prima dell'era della tecnologia. E quindi è normale che tanti altri prima e dopo di lui non abbia assolutamente le capacità per gestire questa cosa. Inoltre, in termini di comunicazione, di empatia, è assolutamente nullo e maldestro, e sta diciamo aggiungendo ai danni pratici del suo modo di fare assolutamente inappropriato anche dei danni morali, perché ovviamente una popolazione che deve reagire a questo tipo di affermazioni chiaramente non può reagire in maniera positiva, tranne quelli che si vogliono autoconvincere che il messaggio positivo nasconda il problema sotto al tappeto. Credo che tutti gli altri inglesi, insomma, non siano per niente contenti della gestione. Ma questo lo vedremo poi successivamente, perché io, secondo me, quello che hanno fatto negli ultimi 3-4 anni è ricostruire questa ideologia britannica che c'hanno solo loro e che si pensa. Cioè io tutti i miei contatti che ci ho avuto nella mia vita con quello che ci aveva a che fare con il Regno Unito, ho sempre percepito, tranne quando sono andato in Scozia, chiaramente che li odiano. Non è il Regno Unito, anche se... Esatto, che li odiano. Tra l'altro io sto vedendo The Crown, su la terza stagione, che sta affrontando insomma la fine degli anni 60, diciamo così. Quindi c'è il governo laborista di Wilson, la crisi economica e via, cioè praticamente dicendo. Altre 18 serie per arrivare in età contemporanea. Sì, vabbè, poi bisogna vedere dove vogliono arrivare. Ma è interessante comunque, perché diciamo che le ricostruzioni storiche sono fatte abbastanza bene. Poi tutto il resto, quello che è all'interno, no, della famiglia reale, non sai quanto possa essere più o meno romanzato. Ma quello è anche relativo, no? Però è interessante perché proprio l'ultima puntata che abbiamo visto ieri o l'altro ieri con Michela, c'era praticamente l'investitura di Carlo come principe di Galles. Ora, noi sappiamo della Scozia, no? Conosciamo la Scozia, l'odio, insomma, radicale e profondo che i nazionalisti scozzesi hanno nei confronti del Regno Unito in sé, dell'Inghilterra in particolare. Ma quello che ho imparato è che i gallesi non erano da meno. Tant'è che questo l'hanno mandato 6 mesi in Galles per imparare il gallese, perché quelli loro si rifiutavano pure di parlare inglese, capito? Cioè, è una cosa incredibile. Quindi mi sono insomma trovato dei link, delle cose da andare a studiare. Insomma, vabbè, quindi vedete che sto Regno Unito, tanto unito, a fine non è, insomma. Attenzione, quindi... chiedo la linea. Prego, prego. Perché di fronte a me, davanti al negozio Bangladesh, si è fermata una macchina contromano sul marciapiede, qualcosa che sto notando molto spesso negli ultimi tempi. È uscito un tizio con una mascherina arancione che si fa strada verso... Dove fa? Rapina? Non lo so, però in questo momento si sta praticamente smarcando ed è entrato dentro l'area dentro la porta del mini market, e quindi penso che stia comprando qualcosa. Voi lo okay, poi ci fai sapere se eventualmente esce. Se esce con la sporta piena, ok. Sì, sì. Oh, sì, esatto, se esce con la spesa o con la refurtiva, non lo sappiamo. E invece tu, Puccio, che pensi del povero Boris, di questa situazione, insomma, del modo in cui l'hanno gestita fino adesso? Puccio è morto, ce lo siamo giocato. Vabbè. No, e sono i zombas, no. Ti ho detto che quando ti allontani arriva lo Puccio zombas. Devi appiccicarti al microfono oppure usa il cellulare. Al microfono. Allora è successo. Oggi c'è qualcosina che non va con i livelli, Puccio. Aspettate che lo sto risolvendo live, datemi un secondo. Ok, intanto noi andiamo avanti. Ho fatto ecco. Tu credi di aver fatto? Bravo, così si sente bene. Vai, vai, vai. No, avete ragione, erano i livelli di questo microfono. Stavo dicendo, lui e Trump, questa fantastica coppia del club dei capelli spiritosi, credo che vivano veramente con il terrore di essere giudicati sul disastro economico che si lasceranno alle spalle. Johnson, credo, sappia perfettamente che quello che aspetta l'Inghilterra post Brexit non è esattamente rose e fiori come se lo sono venduto, che ci sarà sicuramente un periodo molto difficile dietro, che magari si protrarrà per qualche anno. Questa e non lo sarebbe stato a prescindere dal virus. Col virus la situazione peggiora solo. Peggiora, però gli dà una scusa. Cioè può dire, questo vedete, forse è vero. Gli dà un pretesto, sì, è vero. Certo. Come anche penso che Trump, che già ci ha provato con la storia di far passare nella documentazione congiunta degli stati colpiti dalla pandemia la definizione di virus cinese, perché ci teneva a far presente che è partito da lì. Poi 2 giorni dopo ha dovuto chiedere scusa e chiedere ai cinesi se gli davano una mano, perché la situazione ormai pare essere assolutamente fuori controllo. Scusate, quando è che ci saranno le elezioni? In teoria a novembre, bisogna vedere se si potranno fare. Secondo me le rinvia così. Però se le rinvia, io non so che cosa prevede la Costituzione americana, perché comunque la Costituzione americana è abbastanza rigida su determinati. Allora, a parte il fatto che è flessibile su molte cose, ma è molto rigida sulle è molto rigida su altre. È vero che in America alla fine c'è anche il voto online, che no, c'è il voto postale, c'è il voto per posta negli Stati Uniti. C'è il voto per posta sicuro, cioè, poi tra l'altro ma voi l'avete visto come si vota in America? Anche se tu vai al seggio, non è che c'è il seggio da noi coperto. Sono le macchinette, tu metti la scheda, timbri praticamente, cioè, davanti a tutti, fondamentalmente, sì, alla faccia della democrazia, esatto, insomma. No, e proprio dell'America. Se vi capita in questi giorni di quarantena, scusate, prendo di nuovo la linea al volo per dirvi che sta uscendo proprio in questo momento il cliente, ancora non è visibile, ha aperto la porta, no, l'ha richiusa, attenzione, questo è brutto. L'ha riaperta adesso, attenzione, forse vedo gesticolare il negoziante. L'ha richiusa la porta. Cioè, sta succedendo qualcosa. Marco, il negoziante gesticola tipo Stand di Monkey Island? Vedo solo i guanti bianchi. Quindi sì, probabilmente una cosa del genere. È pure Stand. Cioè, non so se. Guarda, vi ridò la linea. Se ok, attendiamo. Stavo dicendo, comunque, volevo dire. volevo dire che a questo punto, poi dopo quindi riesplodiamo, che proprio allora, perché è quasi il passaggio da Baby, da Baby Shampoo Johnson a Donald Trump, diciamo che il passaggio è abbastanza immediato, no? E voi sapete che gli americani hanno questa cosa, no? America the best, America first, no? E first per davvero, cioè nel senso, loro sono talmente grandi a fare le cose che a un certo primi. Punto hanno detto, esatto, ma non, no, ma non è solo quello il problema, che loro non hanno detto oh cazzo l'Italia è prima, Cina roba, no, noi siamo i primi noi, ma tipo in una settimana, cioè, noi ci abbiamo messo un po', insomma, diciamo che facciamo un ragionamento, sono i primi solo con New York, perché di fatto il grosso sta lì. Aspettiamo che lo spread colpisca, che ne so, la California, la Florida, non lo so, Chicago, Boston. Ha voglia a numeri, sì. Non è che glielo sto augurando, sì. Però. Sì, no, no, però in realtà è quello che oggi ha scritto il New York Times, che praticamente il New York oggi è forse peggio della Lombardia, se non dell'Italia intera. Attenzione, cioè, riprendo la linea, ecco, sta uscendo in questo momento con la mascherina arancione e due buste della spesa, una bianca e una verde. Il negoziante gli ha dato del resto in monete, questo lo posso dire. C'è stato un momento di confusione davanti alla porta, perché è rientrata nello stesso momento un abitante del condominio con anch'essa una sporta proveniente però da un'altra, da un altro negozio, ed è anche passata una ragazza che sta facendo i cazzi suoi, quindi c'è stata un po' di confusione davanti alla porta, ma diciamo, a parte questo, ma tutti a debita distanza, cioè, oppure tutti a debita distanza, non si sono incrociati, c'è stato un attimo di esitazione, ma poi l'azione è proseguita senza grossi colpi di scena. A voi allo studio. Grazie. Comunque, ragazzi, giusto per amor di precisione, perché c'è il sito della CNN aperto davanti, ma in questo momento ci sono 18 stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza. Loro la chiamano Disaster Declaration negli Stati Uniti. Sì, che vabbè, poi è stata approvata. Cioè, si sono accorti di avere Trump per presidente? Sì, con molto ritardo. Vabbè. Riprendo la linea velocemente, giusto per dire che il tizio che è salito sulla macchina sta facendo contromano sopra il marciapiede per 20 metri, adesso sta facendo manovra di fronte al negozio. Vabbè, quelle sono le manovre da Walking Dead, no? Cioè quelle da fine del mondo. Sì, sì, ma un movimento da fuori classe, adesso si è dileguato. Ok, è un po' tipo insomma quello che farebbe il nostro amico Davide Gatti, oppure peggio, proprio dice vabbè tanto non c'è nessuno in giro. Ragazzi, scusate, ci chiede giustamente Roberto Tomaiuolo, ma a Nuova York e a Broccolino ce l'hanno le self certifications di Giuseppi? No, però visto che l'Italia ha messo le autocertificazioni anche per chi entra dall'Italia, cioè chi entra in Italia, che devi darci la giustificazione per entrare in Italia, perché non si può più neanche entrare in Italia, attenzione, questa è una cosa importante. Ricordiamo che le autocertificazioni le ha inventate l'America, nel senso, il famoso questionario sull'aereo, entri negli Stati Uniti per fare il terrorista. Oppure sei comunista, ricordiamocelo. Sei appartenuto a una società nazista, comunque no, e penso che queste autorizzazioni ci saranno anche nell'immediato futuro, perché se è vero che noi stiamo affrontando subito l'emergenza e poi piano piano fisiologicamente ne usciremo, noi dovremmo fisiologicamente uscire per primi rispetto al resto dell'Europa, e quindi in teoria dovrebbe essere così, però il problema è che se non prima o poi non si risolve il problema in maniera drastica, farmacologica, e il problema sarà sempre a ondate sta cosa, cioè infatti il problema è quello, che non è che poi dopo puoi far entrare chiunque o poi circolare. Ragazzi, come il problema qui in Italia è, lo stiamo vedendo in queste ore, che c'è già chi, e non facciamo nomi, solo enti, Confindustria preme per riaprire tutto, e ovviamente manda i suoi alfieri a cominciare a delirare di riaprire tutto il prima possibile, quando invece se stringiamo i denti, tiriamo una cinghia, penso almeno per tutto aprile, potremmo riportare la situazione in uno stato ragionevole di cose. È chiaro, finché non c'è un vaccino ci dobbiamo convivere con questa cosa, però dobbiamo fare in modo che, come dire, l'arrivo, l'approdo agli ospedali sia in qualche modo contingentato, perché è tutto lì il problema, secondo me. Però vabbè, ecco, comunque tutta questa situazione porterà delle conseguenze complicate anche nei prossimi anni a venire, no? Perché comunque la gestione della ricostruzione dei rapporti, della gestione delle frontiere, ma anche dei rapporti interpersonali, guardate che questa cosa avrà comunque un peso su di noi, su tutti quanti, perché non è una cosa così semplice oggi. Ma Simone soprattutto avrà un peso enorme sull'Europa, sull'Unione Europea, nel senso che se adesso, nelle prossime due settimane al massimo, l'Unione Europea non trova una quadra per fare qualcosa di costruttivo senza le ostruzioni di, che ne so, degli stati di Visegrad piuttosto che della Germania, l'Europa è finita. Prevalentemente l'Olanda quella che sta facendo particolari ostruzioni in questo momento, fino a che non gli esploderà anche dentro da loro, e allora diranno no va bene, siamo d'accordo, ma tanto purtroppo è così che deve funzionare. L'Olanda che non l'abbiamo mai né vista né sentita in tanti anni di Unione Europea, si sono sempre fatti gli affari loro, adesso devono mettere bocca in un momento drammatico. Però ripeto, se l'Europa sta vivendo un periodo molto, come posso dire, inedito per loro, che è quello della, cioè l'Olanda sapete ci ha sempre avuto questo approccio molto progressista, molto aperto, no? E negli ultimi anni oramai sta vivendo una fase molto più conservativa, molto più, non dico xenofoba, ma insomma quasi poco ci manca. Quindi, proprio xenofoba, sì, esatto. Però vabbè, nel senso, quindi l'Olanda in questo momento, l'Olanda che si chiudono in casa la sera perché hanno avuto minacce, insulti, è una fase storica sì, molto particolare. Il discorso su cui volevo porre l'accento è questo: secondo voi, ecco, lo domando a tutti voi, dopo che si saranno un attimino calmate le acque, se l'Unione Europea non avrà, come dire, acconsentito in maniera unanime a mettere in campo misure straordinarie per evitare fondamentalmente il default economico dei vari stati, in quanti paesi ci sarà un referendum per uscire dall'euro? E in quanti, Italia compresa, i populisti vinceranno a mani basse a quel punto e non gli potremmo neanche dare più di tanto torto? Sì, ma poi tra l'altro il cane che si morde la coda, cioè se leggi le giuste, scusate, posso dire dalla chat, intervengo perché Tomaiolo, che è grande, sempre tanto di cappello, cioè è per me un'imminenza, comunque dice che lui preferiva gli zombie a sto virus, si fa cagare. Ah, fa venire anche la dissenteria, non sapevo. Sì, sì, era quello. Casi. È per quello che sparisce la carta igienica. No, diciamo che io ho sentito un mio amico medico che dice è, diciamo, indicato tra i sintomi, ma è il più raro di tutti la scagazza, cioè nel senso la scagazza non è indice. Vabbè, la scagazza può venirti pure con un'influenza normale e con altre cose, insomma. Sì, anche perché è un sintomo generico di quando diciamo il corpo è devastato. Esatto. Comunque, Puccio, quanti sono gli infetti negli US? Negli Stati Uniti, te lo dico direttamente dal sito della CNN. Perché non sbaglio, hanno superato i 100.000. Sì, sono più di 100.000 distribuiti principalmente a New York. Non hanno tantissimi ancora casi in quelli che loro chiamano gli in-between state, cioè di stati tra le due coste. In questo momento la costa opposta è quella meno colpita. Sì, però a quanto pare a New York ci hanno un morto ogni 17 minuti in questo momento. Tra l'altro ieri è uscita la notizia, che poi in realtà non so se lì era, ma è verosimile, sì, purtroppo con le pistolettate anche, ma no, comunque è normale, esatto, che si propaghino dai luoghi dove ci sono più aeroporti, perché prima, arrivano da là innanzitutto. Vabbè, il problema, raga, è che in Ohio, ma chi cazzo ce va? No, nel senso, quelli sono fortunati da questo punto. Ma come il Molise in Italia, cioè, la stessa. Tra l'altro è divertente perché praticamente il Messico ha chiuso le frontiere con gli Stati Uniti. Sì, lo finiscono loro il muro adesso. Sì, no, muro, sì, va bene. Comunque, no, volevo dire, ragazzi, che ieri girava questa notizia che poi non ho approfondito, però è verosimile purtroppo, che ieri sia morto negli Stati Uniti, non so se è nello stato di New York o dove, un ragazzo di 17 anni perché non è stato ricoverato in ospedale in quanto, indovinate un po', non aveva l'assicurazione. Non c'è soldi. Vabbè, sì, no, ma non a New York, pare in Florida, stavo leggendo sempre su CNN.com. E quindi gli hanno sparato ricco. Per mettere le statistiche nella normalità, ma è un colpo della mano a fuoco. Comunque Tomaiolo dice una cosa che in realtà poi alla fine abbiamo già riflettuto un po' su questa questione, no? Cioè che comunque in realtà si, come previsione matematica, si prevedono 20 volte i numeri di quelli che in realtà noi consideriamo i contagiati, perché noi quelli che noi consideriamo contagiati sono quelli che noi abbiamo registrato, che abbiamo, certo, tamponato, ma in realtà, voglio dire, lui stesso dice che qualche settimana fa ci ha avuto 39,5 di febbre e il medico ha detto c'è l'influenza, statene a casa, cioè nel senso, comunque probabilmente ha avuto il COVID, perché non dirlo, cioè lui magari ora ovviamente non ha accertato la cosa, però potrebbe essere stato un decorso benigno come quello della stragrande maggioranza poi di chi si ammala. Ma l'abbiamo detto anche noi, comunque c'è stato quel periodo a novembre che ci sono state tutte quelle polmoniti, morti o roba del genere, ragazzi, secondo me come qualcuno sostiene su alcune riviste, noi siamo già nella terza generazione demandata di sto virus, quindi è chiaro che noi oggi poi abbiamo comunque dovuto registrare la cosa, perché dal punto di vista tecnico-politico era una cosa che andava affrontata, ma probabilmente secondo me all'inizio hanno provato a dire vabbè, ma vedrai che insomma non sarà mai. E poi vabbè, c'è sempre il discorso dei numeri della Cina, che sono numeri taroccati e tutto quanto, no? Però comunque io volevo lanciare un attimo una provocazione, approfitto che c'è anche con noi Carmine, che in qualche modo è, diciamo, l'ala più informata dal punto di vista scientifico di noi. Io che non voglio, come dire, né fare il negazionista né criticare, siamo messi, diciamo, veramente male. Scusa? State messi veramente male. Se io no, no, dicevo, posto che io non voglio né fare negazionista né sminuire la gravità di questa pandemia, mi sono trovato a cercare per un discorso proprio di, io ho bisogno di razionalizzare, anche se non sono un matematico, però ho bisogno di analizzare razionalmente i numeri che mi vomitano addosso tutto il giorno e tutti i giorni. Che poi cercando schifo, no? Nelle banche dati, insomma su internet, ma da fonti abbastanza autorevoli, emerge un dato che mi ha fatto riflettere, cioè che mediamente, e ti parlo di un dato del 2018, quella che noi comunemente chiamiamo polmonite causa in Italia 11.000 morti l'anno. Sì, è strano che oggi nel 2020 la gente muore di polmonite, ok? Se sì, muore di polmonite, ma si vede che oggi ci sono dei fattori molto aggressivi che fanno morire la gente di polmonite. Un attimo, la polmonite che gira normalmente è batterica. È batterica per la stragrande maggioranza dei casi, e la trattiamo con gli antibiotici. No, ma io non sto facendo questo tipo di analisi. Siamo d'accordo che adesso abbiamo a che fare con un virus e non ci siano terapie, però dico, come dire, la percezione dei numeri varia sulla base, diciamo, di un dato in qualche modo emotivo, nel senso che nessuno dice ah vabbè siamo in media, chi se ne frega, attenzione, non sto assolutamente affermando questo, però sto dicendo che siamo ancora in una scala che non è drammaticamente diversa dall'ordinarietà della polmonite, sì, però, batterica, ecco, sto dicendo solo questo. 11.000, ok, 11.000 morti per polmonite batterica in tutta Italia. Tu la stragrande maggioranza dei morti ce l'hai in due regioni. Beh sì, questo è vero. Però se è vero che te lo dico da una regione fortunata, perché noi abbiamo 1.000 casi infetti circa, 1.200 censiti, con qualche morto, troppi, ma comunque non tantissimi rispetto alla media, quasi tutti over 90, over 80. Vabbè, noi siamo un paese vecchio, da questo punto di vista. Sì, no, ti sto dicendo, e te lo dico da una regione che, tra virgolette, per ora, scusate, sto facendo dei gesti scaramantici di varia natura. Segreta ai coglioni. I riti apotropaici si sono legit. Porto le mani allo scroto in uno scaramantico gesto di attaccamento alla vita. Bravo. Le descrizioni sono importanti in radio, perché, insomma. Sì, assolutamente. Semplicemente perché, ma ti ripeto, tu quel numero di morti, se ti vai a vedere quanti sono sul totale, ok, devi vedere, lo stanno in due regioni. Sì, che è chiaro che Lombardia e Veneto in questo momento, e anche Emilia Romagna, siano un'anomalia assolutamente, ma è sempre perché appunto c'è una concentrazione anche, diciamo, di dinamicità. Sì, no, però scusate, voglio una domanda, questa è una domanda abbastanza importante, perché sebbene noi non riusciamo a registrare tutti quelli che sono realmente malati, registriamo sicuramente di fatto quelli che sono morti, perché comunque anche mio padre, che è morto in questo periodo qui, comunque lui è stato testato per vedere, gli hanno fatto i due tamponi per vedere se la sua morte era comunque conducibile al coronavirus. Quindi proporzionalmente, se i malati sono 20 volte di più, la percentuale di mortalità è molto inferiore potenzialmente. Cioè, sì, nel ma senso, un conto è la percentuale, un conto è il numero. Cioè è vero, esatto, che tu su un milione di contagiati c'hai l'1% di morti. Il problema è che se i contagiati sono 10 milioni, i morti sono una cifra, certo. No, poi il problema è che se tu hai un milione di contagiati in un anno è un conto, se c'è un milione di contagiati in sei mesi è un altro, se ce l'hai in due è la catastrofe, insomma, capisci? Il problema è anche quello, perché ti si riempiono tutte quante le rianimazioni, quindi è un casino. Ragazzi, Lucio fa una riflessione, dice comunque sì, fa schifo la strumentalizzazione che fanno Germania e Olanda, quando poi i tedeschi contano deceduti puri per Covid e non morti con causa Covid. Usano questo dato per dire cavoli vostri, no soldi, i soldi nostri noi non ve li diamo. Allora, io posso dire una cosa su sta cosa, su sta questione qua, che secondo me è proprio il mio parere, voi, cioè chi mi conosce lo sa, io sono stato un euro, anzi sono un europeista anche abbastanza radicale, no? Nel senso che comunque continuo a difendere comunque l'istituzione, la potenziale istituzione europea davanti anche a palesi mancanze. Il problema è proprio questo, è che in realtà noi, l'Europa subisce degli attacchi dall'esterno, ma come posso dire, incentivando la sua autodisgregazione, perché non soltanto non è stata in grado di trasformarsi in unione politica, ma solo unione monetaria, no? Perché poi alla fine l'unione politica è tra l'altro virtuale, però insomma alla fine è troppa arbitrarietà. Se c'è un'unione di intenti che serve per poter salvare tutti, perché l'Europa alla fine serve anche a questo, a essere uno scudo di protezione per tutti quanti gli stati, allora l'Europa ha fallito per davvero. Cioè, nel senso, è inutile sta a discutere poi su questa questione, perché io stamattina ho visto, non ve l'ho girato perché non ho ritenuto, però hanno girato un video che gira, io lo trovo un po' protofascista come video, però alla fine nella mente delle persone il messaggio semplice che arriva è che Olanda e Germania sono delle merde e che ci lasciano e ci trattano come italiani schifosi, però poi in realtà si devono ricordare che la stragrande maggioranza delle cose che loro già hanno le devono anche perché comunque l'Italia l'ha costruita, l'ha inventata, l'ha sviluppata e roba del genere, no? Diciamo che è un messaggio che di per sé a me non piace, però alla fine cioè, se io mi dovessi trovare a discutere oggi con una persona che mi tiene una tesi del genere, devo dire la verità, devo andare a elaborare un pensiero per contrastare un concetto del genere. Non so se siete d'accordo. Senti, intanto sì, Roberto Tomaiolo ci dice: non confondete i governi con i popoli e con le istituzioni. Io devo dire una cosa. Oddio, questa non è un po' criptica sta cosa, cioè governi e istituzioni e coi popoli. Ma secondo me il problema sta tutto nei governi, nel senso che se noi vogliamo un'Europa che una premessa: io sono europeista perché sono convinto che in una visione globale del mondo in cui ci sono solo superpotenze ormai, perché c'è la Cina, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti, i singoli stati che oggi compongono l'Europa da soli sono solo terreni da colonizzare, perché nessuno stato europeo da solo avrebbe la forza di non subire una colonizzazione da chi ha dei numeri, diciamo così, esponenzialmente maggiori dei nostri. Detto questo, quindi, dovendo essere per forza di cose europeista, credo che l'unica soluzione ragionevole a questo punto diventa un unico governo, perché manca una coordinazione. L'Europa è un oggetto in cui ognuno comunque può fare quello che vuole quando è il momento peggiore per poterlo fare, cioè c'è una libertà, no, che gli si ritorce. Infatti è quello che ha detto poi nella specificazione, giustamente Tomaiolo dice che vabbè, i sovranisti se lamentano, il problema è che in Europa alla fine governano i singoli governi, e cioè questo è quello che abbiamo detto. Cioè, interrompo perché macchina ha parcheggiato stavolta col senso giusto sul marciapiede di fianco al market, esatto, ed è uscito un tizio con una giacca bianca con su scritto USA sulla schiena, quindi qui cioè, ci sono chiare, insomma, invasione. È arrivato il cowboy. È arrivato il cowboy, infatti, con le gambe larghe da cowboy. Si presente quello che cavalca il cavallo e c'ha le gambe praticamente a è così, il gringo di pattugliamento, direbbe Ligabue. È il gringo. Dentro a comprare, a fare acquisti. Insomma, mentre fuori c'è un tizio con un gilet arancione che guarda all'interno. Non so cosa sta succedendo. C'è un po' di movimenti dubbi di questa persona a bordo campo, osserva all'interno del negozio, ma non si riesce a capire qualche motivo, però non gesticola, è abbastanza tranquillo. Poi vi passo linea se c'è qualche novità. Okay, ragazzi, dice Lucio Plantone, dice: ragazzi, il progetto europeo è grandioso, e io aggiungo, ed è per questo che Stati Uniti e Russia cercano di smontarlo in tutti i modi. Poi aggiunge: il fatto è che non puoi unire i popoli solo con i soldi. Sappiamo tutti che ormai gli stati sono anche penetrati da interessi sovranazionali ed economici. Poi il movimento dei popoli e merci sono un progetto incredibile, e però si compia. E il discorso è che non ci sono neanche i soldi, se poi quando servono la burocrazia non te li fa usare. Allora, sì, sono d'accordo. Diciamo che attenzione, interrompo, attenzione. Si trattava di una sostituzione, è uscito il tizio, okay. Sì, è uscito il tizio con due bottiglie di birra, con la giacca USA, è salito a macchina e al suo posto è entrato quello con il gilet che ha preso una birra. Allora, diciamo che noi praticamente questa pandemia può essere un'occasione per l'Europa, anche come riflessione postuma, cioè, diciamo che comunque secondo me quando finirà un po' tutto questo inizierà a finire, il mondo occidentale dovrà comunque fare una riflessione globale su tutto, perché comunque questa è un'occasione di riflessione, un momento in cui ti puoi fermare, e fermare serve anche un po' per riflettere. Detto questo, io invece ho una domanda per Walter e Peppuccio, perché non l'ho seguita la cosa, devo dire la verità, non me ne è fregato un cazzo di andare a verificare o roba del genere, ma sta cosa dell'esercitazione dei 30.000 soldati americani in Europa, era vero? Non l'hanno fatta più, vabbè, era prevista era vero, da due però. Anni era prevista da due anni, sì sì, era in programma, assolutamente era in programma. 30.000 soldati dire... sono un boato, regà, no, in invasione, cioè. No vabbè, non sono solo americani, erano americani, inglesi, canadesi, guarda che si fanno queste operazioni congiunte, sì sì. Si prendono allora, le elite di tutti gli stati e le si mettono, okay, tra virgolette, quindi quasi erano... in competizione, anche per misurare un pochino lo stato delle forze, okay, della NATO, anche si fa manovre coordinate, ok, no, cioè perché tu mi dici 30.000 soldati nel complesso è un discorso, sì, dici sì, 30.000 soldati americani è un altro, cioè, capito? No, erano 30.000 soldati nel complesso. E tra l'altro, okay, vi posso dire, di sta manovra da almeno due anni è pubblica, tant'è vero che a Brindisi, dove c'è una sede della NATO, c'è stato un bunker costruito apposta per l'esercitazione, da personale e cablato da una ditta delle mie parti, quindi cioè è una cosa risaputa che ci sarebbe stata questa esercitazione in quel particolare periodo. Che poi se c'hai il cappellino di Stagnola in testa puoi dire no, ma allora avevano previsto l'infezione già due anni fa, sì, magari anche quello. Ma veramente è da mo' che lo sapevamo che prima o poi sarebbe successa una cosa del genere. Il problema è che le istituzioni non erano, nonostante tutto, non erano tecnicamente preparate per affrontare una cosa del genere. Ma ti dirò di più. Pure che lo sapevi, quella è la cosa. Comunque aspetta, no, scusa, poi parli tu, Puccio, scusa. Dato che l'ha detto Roberto, allora noi la live su Picard la facciamo mercoledì sera alle 21:30. Quindi lo dico adesso, poi lo ridico anche a fine puntata, però magari qualcuno spinge prima. Comunque faremo proprio lo specialone dedicato a tutta la serie di Picard. Saremo io, Walter, Marco, Puccio, Davide Gatti e Luca Casciola, quindi insomma un bel gruppone bello importante, insomma tutte persone che hanno comunque sempre partecipato e comunque commentato insomma l'amore per Star Trek, quindi alla fine non c'è anche, okay, il Santa? Scusa, ci dovrebbe essere pure il Santa, però poi ci ha messo un po' troppi, però insomma vabbè, mo vediamo. Io posso chiedere un attimo la linea per dire che il tizio con il gilet si è messo i guanti ed ha infilato esattamente 10 dita, confermo, ha infilato 10 dita nei guanti, ok, e quindi l'undicesima è rimasta fuori, ancora c'è un guanto apposta, i guanti erano due, se volete vi dirò cosa servono questi. Cosa guanto. Servono i guanti? Sì, esatto. Si guarda circospetto, però non si riesce a capire di nuovo dove ha preso la birra, non si capisce cosa debba fare. Comunque, vabbè dai, però ne ha prese due, così almeno una se la beve. Ora, esatto. No, la birra era una, e quella è la cosa grave. Infatti, è già sparita. Simone, se tu sei d'accordo, vorrei anche tornare un pochino al lato un pochino più allegro e cazzaroso di OGM. Dimmi tu se va bene, però prima volevo dare invece un'altra notizia di qualche ora fa che è abbastanza, diciamo, di quelle da far riflettere. Dimmi tu se posso. Vai, vai, come no? Allora, al di là del fatto che, e mi ricollego anche al discorso in apertura, che oggi diciamo ha avuto un lungo e esasperante per certi versi scambio di tweet con un paio di renziani che difendevano il concetto che Renzi ha fatto un'intervista all'Avvenire in cui sostanzialmente dice riapriamo il prima possibile quello che si può riaprire, perché fondamentalmente io la dico senza filtro, è il solito endorsement di Renzi a Confindustria. Lui e i suoi adepti, i suoi accoliti invece chiaramente la vedono come una cosa che serve ad aiutare le, come dire, le fasce più deboli della popolazione, però adesso non ci voglio entrare, che sono quelle che devono morire poi tra l'altro. Però al di là di quello mi riallaccio a questa notizia, perché stamattina cosa è successo? È successo che c'è stato il primo caso di positività di un dipendente di Amazon, peraltro alla sede di Passo Corese. Esatto, poi quale Amazon? La sede di Passo Corese, quella tra l'altro vicino a noi, quella nostra appunto, cioè non poteva essere altrimenti, no? No, però la cosa fa riflettere sul fatto che ci sono state tante polemiche perché i sindacati affermavano che dentro le sedi di Amazon non ci fossero le misure di sicurezza, non si mantenessero le distanze, e non ne dubito, esatto, sì, non ne dubito. Sappiamo, sì, insomma, come vede il lavoro e come vede la risorsa umana Amazon, insomma. Però al di là di questo, adesso il problema è serio, perché chiaramente al di là del rischio di tutti quelli che hanno lavorato negli stessi turni di questa persona, e in un capannone Amazon lavorano centinaia di persone a turno, c'è anche tutto, diciamo, il discorso dietrologico. Cioè, si possono tenere queste logistiche, queste, ma anche le fabbriche e le distribuzioni in generale, aperte, o ha più senso un'ulteriore stretta? Tappiamoci il naso, rinunciamo a tutto il superfluo e diciamo all'inutile, anche all'utile, accontentandoci dell'indispensabile per un paio di settimane, e magari si riparte? Oppure dobbiamo dare voce a chi dice riapriamo un pochino di cose, un pochino alla volta, cerchiamo di far ripartire l'economia, e poi veramente ce la portiamo avanti come vada vada fino a quando non si trova un vaccino? Guarda, io ti dico la mia, prima di tutto, che ci discuti a fare i renziani, cioè proprio anche una cosa tipo che te lo fa fare. Poi leggo proprio Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara Renzi è un pazzo, cioè questo è indicativo un po' di tutto. Beh, no? Allora, affermeranno che problema... lo dicono perché è antipatico, perché tanto ormai l'approccio è quello. Ma no, ma no, Renzi, vabbè, ma quella, cioè, quella è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non è il Partito Repubblicano, capito? Ma i renziani che... hanno una certa, come dire, lo so, vabbè, ma chi se li incula oramai, esatto. Però il problema è questo, è che dal punto di vista produttivo io sono d'accordo che tutto debba rimanere bloccato, anche per veramente per tutelare comunque la salute, se no non ne usciamo proprio più da sta situazione. È vero dall'altra parte che secondo me non so due settimane, cioè, e quindi non puoi veramente tenere bloccata proprio anche le cose strategiche, cioè oggi Amazon, vuoi o non vuoi, comunque è anche, come posso dire, un presidio che aiuta anche le persone che non possono raggiungere determinate cose a essere raggiunte da queste determinate cose, no? Quindi comunque c'ha un valore strategico. Il problema è che all'interno della struttura loro devono essere nelle condizioni di poter fare quello che è il loro lavoro strategico nelle condizioni migliori, e questo io sono convinto che non è così. Cioè, ne ero strasicuro, senza considerare anche l'impatto sulle merci, perché io comunque già quello che entra dentro casa lo disinfetto e lo sterilizzo. Però cioè, oggi a me mi arriva il commesso Amazon col pacco che me lo lascia fuori dalla porta. Cioè, hai capito? Ha voglia di disinfettare la gente, qui poi si crea ulteriore panico nel panico. Boh, non lo so, raga, cioè, guarda, è una situazione troppo una riflessione. Lucio Plantone diceva poco fa, scriveva che Montemagno, che è un influencer, insomma un personaggio che fa anche un po' di coglioni, io avevo un altro aggettivo, è proprio quello, cioè, mamma mia, cioè. Lui dice ha detto una cosa saggia: cerchiamo di ordinare tramite Amazon le cose veramente utili per non congestionare la logistica e rispettare le fasce più deboli. E vabbè, certo che vabbè, non mi metto a ordinare la scheda video del computer. No, allora ragazzi, io ho detto una cosa in mille contesti, credo anche sulle nostre chat più di una volta, l'ho ripetuta adesso nella chat di Spreaker e l'ho detta anche altrove. Io non conto un cacchio, non sono nessuno, però da quando è stato messo tra virgolette... mi sono impegnato da quando c'è stato il primo decreto, da quando c'è stato tra virgolette il contingentamento sociale, a non usare Amazon per nessun motivo, ma non per principio contro Amazon, per rispetto alle persone che immotivatamente dovrebbero venire a consegnarmi quello che io posso comprare su Amazon, che per definizione è qualcosa di superfluo. Ovvero, se qualcosa è indispensabile e mi serve, vuol dire che posso andare al supermercato o in farmacia per comprarla. Tutto il resto può aspettare. Allora, io condivido il principio. Devo dire che non ho fatto lo stesso, ammetto, non ho fatto lo stesso, ma non l'ho fatto perché ho coordinato dei prodotti che comunque mi servivano, cioè nel senso, evitando me in particolare di andare in giro. Cioè, io condivido il tuo pensiero, non lo condivido in senso assoluto, cioè nel senso, capisco che secondo me c'è gente che c'ha bisogno di utilizzare determinate cose, perché comunque lo puoi fare anche col supermercato, cioè nel senso, telefoni al supermercato, speri che ti portano cioè, ma non è che la cosa è diversa dall'utilizzo Amazon, insomma, poi alla fine. Beh, subentra anche la condizione in cui io so lavorare, diciamo così, il supermercato dove mi appoggio abitualmente, piuttosto che tutta la catena di fornitura che c'è dietro ad Amazon, che può essere il personale che lavora nei capannoni, ma anche la logistica che mi consegna il prodotto. È uno stress che, se gli posso ridurre nel mio piccolo, glielo riduco volentieri, perché voglio dire, sì, non hanno nessuna tutela, perché devo approfittare? Quando poi le cose tornano alla normalità, torneremo a fare le normali compere. Sono d'accordo con te, ma il capitalismo, noi volevamo il capitalismo, volevamo i servizi, noi vedevamo, c'erano i servizi, guarda che servizio impeccabile, guarda che bello, no? Tutta la gente che sbavava queste stronzate super nerdistiche, ma poi alla fine quel servizio che Apple ti dà, Amazon ti dà, tutti gli altri ti danno, è roba che costa e per costare di meno, comunque qualcuno la deve pagare il conto, e pagano sempre gli stronzi, è così che funziona il mondo, insomma. Vai Puccio, vai Marco, dite la vostra. No, in realtà io devo dire sono abbastanza dalla parte di Walter, nel senso che io non ho preso quasi nulla in realtà da Amazon. In realtà l'unico pacco che mi è arrivato da inizio quarantena è stata roba che, vedendo che aria tirava, abbiamo comprato per la bambina, tipo i pennarelli a tonnellate, i fogli di carta, sta roba così, con cui perlomeno le rendiamo meno difficile stare in casa. Ma tutta una serie di robe che ci avevo impredicato di prendere, io umanamente al pensiero che i corrieri si debbano esporre anche per le stupidaggini mie, non lo so, c'ho un fremito alla coscienza che me lo... Ah no, infatti, vabbè, per le stupidaggini non c'è manco senso. Io ho avuto la fortuna, perché posso dire che è stata una fortuna, di lavorare per una grande ditta del Meridione che si occupa di logistica, trasporti e distribuzione. Come lavorano queste persone, il modo in cui lavorano, io l'ho visto. Francamente, il pensiero che si debbano esporre a rischi, perché al di là di tutte le protezioni che puoi prendere, comunque c'è contatto, c'è vicinanza, il rischio esiste sempre. Che lo debbano rischiare perché io ho bisogno del quarto monitor 4K, che, come avete detto oggi, neanche mi so configurare la parte di immagine, non gliela fo, non ci riesco. Marco? Ma io non è che acquisto tantissimo da Amazon, insomma, quindi tutto ciò che avevo da acquistare l'ho acquistato prima dell'emergenza, e quello che ho da acquistare tanto non me lo posso permettere, per cui problemi non ce ne sono, e chissà per quanto tempo non me li potrò permettere, quindi sto tranquillo, ragazzi miei, e guardo, metto diciamo nella lista dei desideri, poi quando sarà. Ma neanche ci vado su Amazon, quindi proprio... Anche perché non so quanto tempo durerà tutta questa storia, perché fino a che non c'è un rimedio definitivo, che è solo col vaccino o con una terapia medica, secondo me il rischio di restare chiusi dentro casa, di avere gli spostamenti limitati, è continuo, insomma, quindi vediamo un po'. Bene, bene, bene. Allora, la Raggi, Walter, la Raggi, che fa la Raggi? Sta Raggi, mannaggia miseria, ne fa una più del diavolo. La Raggi, che ricordiamocelo, viene da un background che poteva rendersi utilissimo in questa circostanza, perché lei faceva le fotocopie nello studio legale Previti, quindi avrebbe potuto, come dire, consacrare il suo ruolo a stampare copie dei decreti, delle autocertificazioni in questo periodo, no? Vabbè, una professionalità che andava sfruttata. E invece no, ha deciso di fare cosa? Di mettere a disposizione di tutti i romani la possibilità di delare, di fare delatori, e cioè di segnalare tramite il sito e tramite tutta una serie di contatti e di canali i comportamenti secondo loro fuori norma che vedono, diciamo, durante il... come se Marco adesso avesse segnalato il tizio che aveva parcheggiato contromano per andare dal Bangla. Esatto, cosa che ho fatto regolarmente, insomma, nelle e Barone da tanto l'apposita app. Esatto. Cosa? Io non ho sentito un rumore strano. No, era Varone che gli rispondeva, perché ovviamente ricordiamolo per gli ascoltatori che non lo sanno, noi siamo in provincia di Roma, ma abbiamo un sindaco nostro. Nosotros. Esatto, il nostro sindaco. Io però sono d'accordo, tutto sommato, Caraggi. Mi dispiace dirlo, però so che sono un po' in controtendenza, ma stavolta mi dispiace, ma mi sento d'accordo. Così, tiè, debotto. Io non lo so, diciamo, abbiamo affrontato questo argomento. Io trovo che, come dire, denunciare il prossimo è un'azione che chi la fa è perché fondamentalmente è il primo che ha degli atteggiamenti borderline, morbosi o comunque fuori dalla liceità. Perché quello che ti porta tendenzialmente a fare il delatore è: se pizzicano lui, non pizzicano me. Io la vedo così. Guarda, allora il problema non è, cioè, allora, io comprendo che l'indicare, l'additare, il denunciare, tra virgolette, no? Nel senso, ci riporta, insomma, a memorie non belle del nostro paese. È vero anche, però, che comunque è una situazione così, dove io sono convinto che una piccola, però sensibile percentuale delle persone hanno capito un cazzo. Qui tocca sempre, cioè, non è morte mia, vita tua, però, capito, insomma... Però Simone, poi si fa alla fine di Burioni e con la Raggi sui social, l'altra, mi sembra 2 domeniche fa, mi pare, Burioni manda un tweet mettendo in copia anche Virginia Raggi, dicendo, Burioni, se non sbaglio, si muove sull'asse Milano-Torino, quindi partiamo da sto presupposto che certo non era a Roma, segnala degli assembramenti anomali sul Lungotevere e usa una foto degli anni 80 per dimostrare questa cosa. Sì, la Raggi che fa? Ringrazia e manda le pattuglie. Ma secondo te tutto questo è normale? Allora, però non è, cioè, non è che poi ognuno la vede come gli pare. Cioè, lì, allora, se la Raggi non riconosce che quella è una foto degli anni 80 è una questione. Il fatto che lei manda le pattuglie è nel suo dovere. È un po' la stessa cosa che è successa a Yuri Ghione, che noi sappiamo, che ogni tanto seguiamo su YouTube, no? Scusa Simone, cioè, però... quando ho fatto un incipit apposta, saputo... Burioni era 800 km, ma che ne sa? Ma è certo, io sono d'accordo con te, però eventualmente fosse vero, eventualmente lui avesse ricevuto una foto da un cittadino, il dovere del sindaco in quel caso è quello che, di quello che ha fatto lei, l'avremmo fatto anche noi, probabilmente anche come suggerito dalle stesse istituzioni che stanno intorno. Perché comunque il problema è che io, quando sono andato l'altro giorno a Prima Porta, Simo, scusa, posso? Se è vero questo che dici, allora è altrettanto vera una denuncia per procurato allarme, visto che era una cazzata. Ma è una cazzata, ma lei non lo poteva sapere. Allora è lui che deve essere denunciato, non è lei che... Lui, sì, dico, se è vero che aveva il dovere di controllare, doveva il dovere anche di dire: ma hai detto una cazzata, mi hai fatto spostare 2 pattuglie delle forze dell'ordine a buffo, te becchi una querela, una denuncia, quello che sia, il procurato allarme. Assolutamente d'accordo, su questo sono assolutamente d'accordo, così come è successo al consigliere della Lega al paese del cazzo lì, non so dove, con qua la storia del Bangladesh, che alla fine comunque lui ha fatto tutta sta pippica e poi alla fine sono arrivati i vigili e si sono bevuti a lui e si sono culati a lui, perché, ma giustamente, perché, però io dico, comunque, tornavo nel discorso, a Prima Porta io sono andato lì, c'era un bar aperto con assembramenti di persone fuori, con i vigili che arrivano, dico, ecco, mo si inculano tutti, i vigili si vanno a pier caffè al bar, no, cioè, hai capito qual è il problema? Che qui la gente non ha capito qual è il problema, cioè noi ridiamo su De Luca, ma De Luca c'ha ragione al 110%, regà, cioè, ma Simone, io sono d'accordo che c'è ancora una percentuale di persone anche troppo alta che non ha capito, o che anche se ha capito fa finta di non capire, però aspetta alle forze dell'ordine risolvere il problema, non al cittadino fare il delatore. Secondo me è proprio un discorso di inversione del ruolo, la questione di sanità è diversa. Però io non sono d'accordo, perché è anche un dovere civico il fatto che se io vedo un reato, raga, cioè, è come se io vedo due che stanno a stuprare una e non dico niente perché dicevo, io mica voglio fare delatore. Cioè, oggi questa cosa è un reato. Cioè, ok, comunque tu stai facendo una cosa che le istituzioni ti impediscono di fare. Quindi, cioè, non è, capito, che due che si stanno a fumare una canna. Sono persone che è illegale anche quello. Però il problema è che si creano i vigilanti, la figura della ronda fascista, non so come dire. Sì, io capisco la sensazione che ti può dare. Però esatto, cioè, nel senso, so due cose veramente diverse. Cioè, una cosa è che io vado, capito, veramente vado in giro a fare le pattuglie del quartiere e vedo Ernegretto che sta a vendere fumo e andiamo là, gli diamo i bastonati o chiamiamo i vigili. Una cosa è comunque essere in una condizione normale dove vedi 15 persone che stanno assembrate a fare la messa segreta, cioè, raga, ma di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, io capisco quello che tu vuoi dire, no? Ma qui hanno denunciato 15 persone perché stavano a fare la messa segreta, capito? Cioè, di nascosto. Non si può fare, regà, non si può fare. Se vale per me, vale per tutti. Ma non è una questione di vendetta, di astio, di fascismo, roba del genere. È una questione che è giusto così. Se no, allora famo tutti come cazzo ci pare. Famo come quella che dice no, no, ma dovete uscire perché tanto non è vero un cazzo. Cioè, ma io sono il primo a dire che non si deve fare e mi incazzo con i runner che trovano il pretesto di dire ma io non faccio niente di male. Io sono il primo a chiedere integralismo per uscirne prima. Però non riesco ad accettare questo tipo di, come dire, di compromesso etico, morale, non lo so. Oh, non è un compromesso, cioè io dico, se stai a fare il vigilante è una cosa, e sono d'accordo con te. Se tu io vedi... credo che esista, Simo, io credo che esista una legge che ti impone, in caso che tu veda qualcosa di illecito, in teoria sì, in teoria sì. Quindi, in teoria sì. Non stai a fare niente, anzi. No, no, ma io soprattutto non mi sento... quando c'è... la sanità, cioè, non è un conto che stai a fregare. Sì, lo so, però ragazzi, noi non stiamo parlando di quello che è un reato in senso stretto, stiamo parlando di segnalare comportamenti che transitoriamente reati. Sono come oggi dire... è un reato, però, cioè, quindi stai denunciando un reato che mette diciamo in pericolo la salute di quelle persone. Amplifica che sono lì, potenzialmente che è amplifica la propagazione di un problema. Esatto. Cioè, ragazzi, non se stiamo. Uh-huh. Cioè, se tu lo vedi sotto casa tua, cioè, tu comunque questa cosa poi sta a te, chiaramente. Però, insomma, comunque mette in pericolo anche il tuo ambiente in qualche maniera. Ma non perché, oh, ragazzi, cioè, qui io capisco che oggi questa situazione, e lo capisco veramente, lo capisco proprio, c'è una parte di me dentro che soffre per il fatto che comunque questa situazione compromette i nostri diritti, perché stiamo vivendo una situazione di democrazia sospesa, stiamo vivendo una situazione che è alterata a tal punto da non comprendere bene fino a che punto c'è la democrazia e dove non c'è più la democrazia. Da qua però a dire che se io vado a fare il vigilante e bastono la gente o denuncio gente a caso è una cosa, quindi sono squadrista, e un'altra cosa è comunque trovarmi in una condizione dove io vedo una cosa che non può essere, perché non può essere, non solo non può, ma non deve essere, e comunque avviso le forze dell'ordine, le quali a loro volta continueranno a far finta del cazzo, perché c'è anche questo poi il problema, cioè nel senso, no, quindi sai, questo è siamo molto borderline qua, io cioè, comprendo il discorso di Walter, non è che, anzi no, scusate forse... ragazzi, io ve lo, cioè, da quello che mi è parso di capire, io da quando è iniziata la quarantena ancora i vigili non li ho chiamati per nessun motivo, però da quello che leggo, almeno zona Puglia, non so se a Roma è stato fatto un passo avanti in questo senso, nessun ente, i vigili urbani, il comune, polizia, carabinieri accettano delazioni anonime, ti devi identificare, devi dire chi sei e devi far presente quello che hai visto. Vabbè, anche giusto, certo. Ok, quindi se hai detto una cazzata ne rispondi. Quindi, certo. Cioè, io vi ripeto, io capisco che quello che diceva prima Walter, che comunque sì, no, ma io, cioè, procuri un allarme. Okay. Io capisco che non è piacevole, però vi devo dire, io porto sempre un esempio: cioè il 117, che è il numero di pronto intervento della Guardia di Finanza. Ok, io penso che sto numero in Italia l'avranno chiamato forse in 4 o 5 da quando esiste. Però tu teoricamente, se assisti a un illecito fiscale, hai il dovere, non ti fanno una fattura, ti propongono lo scontrino al bar, lo scontrino al bar, si chiama il 117, quanti di noi l'hanno fatto? Quindi penso che sia anche in questo momento un'opzione che molti sanno che esiste ma che non stanno utilizzando. Io al più vedo donne che si affacciano alla finestra o uomini e gridano a quelli che li si assemblano sotto il balcone e fanno benissimo, ma da qui a vedere direi la piscia, tra l'altro, cioè, un bel piscia. Gavettone sotto forma di gavettone di piscio, beh, è più onesto intellettualmente quello, però decisamente, però vedo più questo che sta corsa alla delazione, anche perché vabbè, ripeto, io il problema è quello che non allunga anche c'è il rischio che ti allunga anche i giorni di chiusura dentro casa per quegli strozzi là. Per cui se permetti, secondo me in Italia per un italiano che ha un certo tipo di determinata cultura è difficile riuscire a capire dov'è il confine tra il dovere civico, che comunque c'è, perché tu c'hai comunque una responsabilità verso la tua comunità e l'omertà, E no, più che l'omertà, diciamo, è la bastardaggine, il fascismo, capito? C'è cioè, l'atteggiamento quello quasi vendicativo, cioè ah, non mai fatto lo scontrino, pezzo di merda, mo chiamo i vigili, faccio un culà, capito? Perché poi però in realtà ogni volta che qualcuno fa in tua presenza un qualcosa che è illecito, danneggia pure te. Cioè, è un fatto oggettivo, cioè non è una questione che alla fine è danneggia te, danneggia gli altri. Io ma volevo precisare una cosa: io non sto facendo tutto un ragionamento sulla delazione, quanto sull'invito da parte delle istituzioni a fare il delatore. A me è questo che nell'equilibrio, diciamo, nel gioco delle parti tra Stato e cittadino, il fatto che lo Stato mi inviti a fare il delatore non mi sta bene, non lo riesco a accettare moralmente. Poi quello che dite io lo comprendo, non lo sto no, diciamo perché ritenendo porta sbagliato. Un po' alla wanted del Far West, no? Cioè nel senso è come se comunque un'istituzione dicesse ti premio se tu ma aiuti ancora prendo, sto tizio, no? In realtà, no, esatto, in realtà il discorso è che in una condizione d'emergenza come posso dire, secondo me è sbagliato il messaggio, cioè forse il modo in cui è stato comunicato, però in una condizione d'emergenza secondo me un'istituzione in qualche maniera deve fare appello al senso di responsabilità globale e collettivo di tutti, che comprende anche il fatto di dover comunque indicare quando ci sono delle situazioni anomale, no? Però se forse hai detto ah raga denunciate, perché forse magari il messaggio è sbagliato, cioè moralmente, eticamente è sbagliato, però non è sbagliato il concetto, capito? Quindi forse secondo me il problema di gente come la Raggi è che non ha la capacità politica e comunicativa di capire come dovrebbe funzionare l'istituzione, perché è una cialtrona. Però è un altro discorso, cioè il discorso dei principi non è sbagliato secondo me, poi raga, cioè nel senso è che no, vabbè, magari facilitarlo del tipo ti faccio l'app con cui puoi fare dell'azione anonima. No, l'anonimato cioè, no. Meglio, la procedura tramite il sito del comune, non lo so se è anonima, non l'ho mai affermato, ci tengo perché sennò poi sembra che sto... Scrivi, mi chiamo Ayei Ebrazov, vivo a Centocelle, vizio. Questo è chiaro. Ma in chat che dicono? Ma in realtà stanno parlando del fatto, per esempio, Pier G dice: io abito a Bergamo. Posso e interrompere quindi... un secondo, in questo momento sta transitando una persona che è usata di mascherina, dovrebbe essere un FP2, e con un cane con le zampe bianche, credo che siano state pulite con la parecchina. Esatto, sono bianche. Il cane in realtà era nero, però sono diventate bianche per colpa. Il resto del corpo è marrone e nero, quindi sicuramente sono state svarecchinate. No, perché poi Michela mi sta di che insomma sta creando un sacco di problemi ai cani sta cosa, perché che poi voglio dire vabbè, noi siamo fortunati perché i gatti nostri non ne escono, ma insomma vabbè. Ma il problema è che scusa, poi Walter, la gente che non c'ha un cazzo da fare è chiaro che ti giudica buffo, perché quello che non ha il pretesto, la giustificazione per uscire, addita te perché gli erode che tu c'hai il cane, quindi stai uscendo, stai facendo qualcosa che a lui non è permesso. E questa è la base del ragionamento. Oggi per esempio, e questo per dire che ci sono tutta una serie di comportamenti assurdi, vedevo su Omnibus Pizzarotti che mostrava degli scontrini e delle ricevute di una serie di attività commerciali che di fatto dimostravano, per una quantità spropositata di microtransazioni, che la gente andava a fare microacquisti per avere la scusa per uscire. Questo è sbagliato, io sono perfettamente consapevole di questo. Allora applica però delle misure adeguate, cioè identifica chi va a fare la spesa al supermercato e digli: sei venuto oggi, scusa, puoi venire fra una settimana, fai la tessera per il pane. Va bene se identifica le persone, va bene, e denuncia sì, quelli che qui, si vanno a fare, sai, se siamo no, sempre al limite pure qui, no? Ma senso, a me va bene se lo fanno le entità preposte a farlo nell'ambito di una misura temporanea. Poi chi te lo dice? Non credo. Vabbè, che quando... tu lo sai che questo poi è veramente è un discorso aperto che affrontiamo quasi settimanalmente pure su Data Nightmare, no? Nel senso che comunque questo è un problema che purtroppo aggiunge ulteriori limiti secondo me alla situazione, cioè, no Simone, ma infatti tutto... proprio perché tramite certi strumenti non c'è la possibilità di verificare la cessazione di un comportamento. Io per esempio dico: non sono assolutamente favorevole o disposto a essere tracciato informaticamente, cioè non mi sta bene che mi forzi ad usare un'app che misura dove vado quando ci vado. Da un punto di vista invece del controllo sul territorio, cioè se mi metti le pattuglie ad ogni incrocio, mi metti il carabiniere che controlla quando entro al supermercato, mi sta anche bene, perché è chiaro che finita l'emergenza il carabiniere da lì davanti deve sparire. Non ci stanno se e ma. Sì, però per esempio a Michela l'altro giorno al supermercato è successa la situazione anomala dove tutti hanno chiamato i vigili alla fine sono intervenuti, cioè, però perché sono intervenuti? Perché c'era sto tizio che praticamente non entrava, cioè stavano tutti in fila, toccava al tizio, poi toccava a Michela, quindi stavano tutti a, a X metri di distanza, però questo non entrava perché doveva arrivare quella che stava con lui e tutti dicevano guarda che lei non può entrare con te, cioè tu devi entrare e fa la spesa, non potete entrare in due. E lui è andato avanti sta filippica fino a che in un modo o nell'altro questi due sono entrati, non si sa come, e hanno continuato a fare lo stesso problema anche nella fila della cassa, perché praticamente no ma lei deve fare la roba, cioè, fino hanno chiamato i vigili. Ma lì è sbagliato il fatto che nessuno del supermercato sia intervenuto, tu dirai, ma non è il ruolo loro, ma manco di quelli che vanno a fare la spesa. Ma loro sono intervenuti, ma non è che li potevano arrestare. Hai visto? Quello là, il vigilante, che comunque anche lui per rispettare anche le distanze robergene, prima è intervenuto e poi ha chiamato i vigili. I vigili sono venuti e quando questi sono usciti dal supermercato se li sono inculati e hanno fatto bene. Cioè, ma certo, sì, ma quello mi sta, 3.000, questo è assolutamente 3.000 euro sacrosanto. Di multa a tutte e due, cioè voglio dire 3.000 a uno e 3.000 all'altro, e hanno fatto solo il dovere loro, cioè, sì sì, ma su questo io sono assolutamente d'accordo, però ripeto, si è manifestata una catena di eventi legittima. Comunque, sono usciti i numeri della Lombardia. Ma... Oh, vai. Allora, i morti comunque sono ancora un numero che fa paura, perché sono 542, però il numero di nuovi positivi, che è 2117, è in calo. Sto cercando di capire anche di quanto... È la metà di ieri. Stiamo parlando solo di Lombardia. No. Ah no, Lombardia. Lombardia erano più di 2500 ieri, quindi sì, calano. Non tantissimo, ma calano. Comunque, rilanciatomi un attimo. Torno a scalare i positivi, sono 3.651 per ieri erano 4.401. Quindi vabbè, ma il problema è che fino a che le variazioni sono queste, non stiamo parlando di niente, cioè stiamo parlando comunque della media costante comunque, perché sì, però vuol dire che non c'è l'esplosione dei nuovi contagiati, e quindi vabbè, la proporzione è lineare, certo, non più geometrica. Certo. Certo, che poi la storia dei tizi andati al sud, in teoria. No, non è. Poteva andare, ragazzi, molto peggio, eh. Poteva andare peggio. Noi abbiamo io li arresterei tutti ugualmente, cioè detto. No, io una passata di schiaffi. Volentieri. Sì, è lo sganassatore, però, anche vabbè, lo sganassatore. Però, no, coi guanti. Tra l'altro, coi guanti, la mascherina. Certo, è chiaro. Sei guanti di pelle, però. Stavo dicendo, no, in realtà noi abbiamo in Puglia lo palco che Emiliano gli ha dato un ruolo di responsabilità nella gestione dell'emergenza, che è un noto epidemiologo, e stava dicendo, ragazzi, ci aspettavamo veramente molto di peggio, in Puglia c'è una progressione intorno ai 100-150 casi al giorno che è gestibile, speriamo duri così. Comunque mi ricollego un attimo alla questione spesa, io non so se Walter, che io Twitter lo bazzico in modalità stealth, leggo molto, posto pochissimo. C'è stato un ragazzo che ha avuto lo stesso problema della coppia davanti a lui alla cassa al supermercato, e quando la tizia del supermercato, la cassiera, ha detto guardate uno per famiglia, la signora ha risposto perché lei si fiderebbe a mandare suo marito da solo a fare la spesa, ha indicato l'autore del tweet, guardi lui, la moglie l'ha mandato da solo, chissà che disastri ha combinato. Vabbè, ma questa però è una cultura, capisci? Cioè, noi stiamo a combattere contro una cultura che è ridicola, capisci? Vabbè, qui Lucio Plantone dice: a me, sinceramente, non mi dà fastidio i trasgressori, ma quelli che vogliono fare i furbi. Il problema è quello, cioè, che comunque è un trasgressore quello che vuole fare il furbo, perché c'è la gente che pensa che la legge vale per l'altro, ma non vale per loro. Cioè, a me, sto coso io faccio come cazzo mi pare, non mi sta bene in sì, questa cosa. Su questo condizione. Siamo d'accordo tutti, cioè, purtroppo, su questo, poi. Il discorso che tu dici, purtroppo, sì, ti ho detto, stavo un po' al limite, però onestamente se io vedo una cosa che per me è una cosa grave e penso che faccio del bene a fare una determinata cosa, la faccio, cioè, poi è chiaro, deve essere una cosa veramente limite, perché io l'altro giorno di fronte comunque davanti ai vigili sono rimasto sconcertato, perché il vigile esce dalla macchina, guarda mio fratello, fa buongiorno, come a dire, che cazzo te guardi, no? Perché poi siamo arrivati un po' a questo, no? E poi tutti entrano al bar appassionati. Io dico, vabbè, ma questi escono dal bar, gli hanno fatto la multa e gli fanno chiudere. No, tutto a posto, non, cioè, raga, cioè, c'è qualcosa che non va in questo. Comunque, ragazzi, io direi, prendiamo un paio di notiziole, quelle un pochino più, come dire, frivolette, così ripristiniamo un pochino il momento allegro, anche perché poi stiamo aspettando i dati nazionali che dopo magari in chiusura leggeremo. No, sapete cosa è successo? Questa è una notizia che viene dal Gazzettino. Sono dati io. Stai, buono. Cosa? I dati nazionali sono usciti. Stanno, sono 3.651 i contagiati totali e sono 4, rispetto ai 4.401 di ieri. E i guariti sono triplicati, 1.434, ieri erano 589, le vittime 889, però questo non è corrispondente col dato dalla Lombardia. Può essere, quant'è la Lombardia, hai detto? 500 e qualcosa. Ah, allora sì, ok, allora sì. Ce lo sta, 969 ieri, quindi c'è un calo complessivo, diciamo così, e un aumento dei guariti, che il triplicare i guariti, insomma, è la cosa forse che da una parte ci conferta di più, sì. Cioè nel senso, no, ma ragazzi, qualche giorno fa, ora magari vi trovo la fonte, spiegavano che in realtà i guariti sarebbero andati a ondate, cioè che più passa il tempo più avremmo visto quel numero di guariti crescere, magari non in maniera costante, ma sarebbero stati sempre beh, perché più. Il decorso della malattia non è lineare, non è lineare, ma soprattutto nella stragrande maggioranza dei casi, come i programmi di montaggio video, non lineare. Vabbè, comunque sì, pure a Girasole è successa una cosa simile, il fatto che poi la cassiera l'ha fatta andare avanti perché il tizio doveva fare la spesa con la moglie, e il problema è anche qui, pure il cassiere non glielo devi far fa, non gliela fai fare la spesa. Io non te batto lo scontrino, non esci dal supermercato, cioè vabbè, dai raga, scusa, c'ha ragione Walter, chiudiamo, diciamo, in che ne so, in un paio di notizie di quelle che ci fanno fare due risate, dai, ci fanno sdrammatizzare, perché poi da ridere c'è poco sostanzialmente. qualche giorno fa, ma noi ridiamo lo stesso a fine, cioè non è che c'è prega niente. La notizia è del 24 marzo, quindi immaginiamo sia successo intorno al 23. In serata, in provincia di Latina, ad Aprilia in particolare, sulla via Nettunense, che diciamo chi è di zona più o meno conosce, una signora è stata fermata da una pattuglia della polizia perché praticamente era stata trovata a spostarsi in pigiama. La polizia lo ferma, le contesta violazioni del decreto dell'emergenza coronavirus, e la sua spiegazione per difendersi, per motivare il fatto che fosse in giro, è: sto seguendo mio marito per beccarlo con l'amante. No, vabbè, fantastico. Aspetta che stavo lontano, aspetta. Grande, la signora vince sempre, comunque. Ma sulle chiappe. E sei un pirla, taratara. Vabbè, no, ma soprattutto perché sappiamo se l'ha beccato dopo. No, l'hanno fermata, quindi non lo so. Poi Vabbè, cioè, si vede che i vigili erano amici del marito, gli hanno parato il culo. Pure secondo me. Attenzione, che mi sentite? Sì, sì. Cioè, sì. Ah, okay. No, c'era Springer che ha fatto una cosa strana. E quindi no, la pagina non mi dava errore di aggiornamento, quindi pensavo che mi era caduta la linea, che ne so, no ci siamo, ma sì, drammatizziamo. Comunque sì, ho detto, pure quelli della messa comunque sono divertenti, perché quelli sono gli irriducibili proprio, cioè quelli che non ce la fanno a sta senza il prete, ma poi pure il prete, ma cazzo, ma vabbè. Ma lo protegge Cristo. Attenzione, breaking news: sono due del condominio che stanno di fronte, che stanno aprendo i quattro cassonetti, guardano all'interno di quello con il tappo giallo. E perché? Se no, hanno buttato qualcosa, non lo so, confabulano, sono sulla sessantina, settantina credo, quello con quello la tuta giallo bianca e rossa, è probabile, quindi. Però sono rientrati Gualdi? Gualdi? Siamo giocati Gualdi. Ciao Gualdi, è stato bello, perché poi Gualdi è stato conferito nell'indifferenziata da... No, che poi io voglio un attimo sottolineare questa cosa veramente importante, un po' mi dispiace, giusto, fa quell'informazione importante, perché alla fine in qualche maniera dobbiamo rendere anche le persone acculturate e preparate al problema, che voi lo sapete che più usate il 5G e più vi esponete, no, al virus, perché anche, perché certo, anche lì c'è una questione. Il 5G vi abbassa la vibrazione a zero. Bravo. Vedi sì, che l'hai, bravo, l'hai visto pure tu il video, allora. Vedi. No, allora non l'ho visto, ma ho immaginato. Quindi. Sì, però sì, scusate, ragazzi, vede quello, che questo è un ignorante. Perché la vibrazione non dipende dal gestore, dipende dal cellulare. No, dipende da, no, dai, dipende dai dall'onda. Vabbè, raga, questa buttata lì nel cesso, la vibrazione cellulare, drin drin. Madonna mia. Vedi quanto sei non c'era io, no, non c'eravamo arrivati. Questa era troppo sopra. Questa era troppo da Gusella. Esatto. Madonna, infatti, stavo per dirlo io, guarda. Ragazzi, a proposito di Gusella, mi dispiace che non abbiamo milanesi, perché qui abbiamo la dimostrazione fotografica di chi vince il premio Fast and Furious 2020 a Milano. Ed è Gusella. Ma no, che premio è, scusa? Sì. È il premio di due pattuglie della stradale della polizia di Milano, che lungo un viale dove c'erano praticamente solo loro sono riusciti a fare un frontale. Io penso veramente meraviglioso. Grazie. Cioè, secondo me è il come posso dire, le strade vuote disorientano la, è come mia moglie quando entra, ho messo il link in chat così vedete la foto e capite perché è qualcosa di romantico. Esatto, è come mia moglie quando entra dentro il centro commerciale e è pieno di parcheggi e si disorienta, non sa più dove parcheggiare. È la stessa cosa, secondo me, una macchina della polizia, hanno strade tutte vuote, non posso fare quello che a me pare, e la stessa cosa diceva l'altra macchina e si sono frociati. Il problema è poi dopo fra di loro, che cazzo sono dire? No, ma soprattutto, cioè, che fanno? Fanno il CID in questi casi, mi chiedo. Eh sì, cioè, fa il CID, sì. Anche come se funziona in realtà l'assicurazione delle vetture di pubblica sicurezza? Allora, Rizzi? È sotto convenzione e in monocompagnia, quindi sicuramente non si fa manco il CID. Cioè, nel senso, no, certo, sono tutti la stessa compagnia. Esatto, penso proprio. Cioè, ma non è come se fosse lo stesso cliente. No, ma secondo me stanno a fare qualche inciucio. Ma pure secondo me. Viene addosso. Capace. No, perché corpo di frusta, sto 2 settimane a casa, poi te lo frocio io a te. No, solo che peccato che. Peccato che il colpo di frusta è stato completamente colpo del COVID. No, delegittimato. Sì, no, sì, esatto, non ne viene più pagato. Cioè, proprio non. Ah. Una volta, sapete, no, mal di testa, mal di ginocchio, male alla schiena, alla fine venivi sempre pagato perché erano dei mali non diagnosticabili, non era verificabile. Allora, oggi, dato che quindi non è verificabile. Pagava. Oggi io non lo dicevo dal punto di vista del risarcimento economico, dicevo dal punto di vista del, che ne so, della prognosi da pronto soccorso, che te fanno quantomeno sta a casa. Ah sì, ecco, quello può essere pure, sì. Vabbè. Colpo di COVID. No, comunque ma quindi guardi, oggi prete, guardi, oggi al Cibali non è successo niente fondamentalmente, poca roba. Beh no, c'è stato parecchio movimento, insomma, c'è stata una sostituzione, c'è stata l'uomino con le birre di USA, ecco, la spesa, c'è una macchina color melanzana che con le 4 frecce sempre parcheggiare contromano, perché questa cosa di parcheggiare contromano sul marciapiede è bellissima. Cioè, lo sai che Luca Casciola ti chiederebbe che colore è il color melanzana? No, melanzana forse lo conosce, sul verde e sul rosso, mi sa che c'è. No, no, però lui pure tutta la parte viola, marrone, per lui è tutto nero. Cioè, tutto quello che c'è tra il bianco e il nero è un macello. è un gran casino. Ma io mi dico, ma come fai a vedere i film, cose, cioè, nel senso, c'è tutto una parte dello spettro cromatico per te è tutto nero, praticamente, quindi, bello. Magari in varie gradazioni. E vabbè, oh, raga, d'altronde esistono anche, cioè, come i cani che vedono in bianco e in nero. Io, guarda, lo sapete, adesso vi racconto sta cosa così ci facciamo una mezza risata, che io ho scoperto che esistevano i daltonici una volta dentro un bar da ragazzino d'estate a uno dei villaggi, insomma, dove si va in vacanza, perché c'era il classico frigo, quello là dei gelati, no, quello dove ci stavano i ghiaccioli, e ho detto al tizio: che posso avere un ghiacciolo? Sì. No, lui è andato lì aperto, stava a prendere sti ghiaccioli, dice: come lo vuoi? Lo voglio alla menta. E lui prende e me lo dà al limone. Gli dico: guarda, questo non è la menta. Fa, non so, per me i colori sono tutti quanti uguali. Qual è la menta? È quello verde. Ma ti dico, i colori sono tutti uguali. Allora gli ho detto: allora guarda, è quello. E per la prima volta nella mia vita mi sono sentito meglio. Mi sono sentito uno che c'era meglio dell'altro. Che era fantastico. Quindi ho avuto un momento di emozione dentro di me. Vabbè, bevrei anche adesso. È riscatto sociale, Pizzi. Ci sta, esatto. Allora, i cani non possono guidare l'auto. Che c'entra lobby frontali? Scusa, non... vabbè, che facciamo? No, perché prima dicevo che vedevano in bianco e nero i cani, e lui ha risposto: i cani non possono guardare. Vabbè. credo che sia quello. Possono guardare in alto. Esatto. Tra l'altro sì, poi i cani sì, so che vedono in bianco e nero. I gatti invece hanno tutto uno spettro cromatico pure loro particolare. Vabbè, poi vorrei capire queste cose effettivamente come le accertano. Me lo chiedo sempre, però vabbè. Penso che ci sia. Le domande. No, di che colore è questo? È verde. Grigio. Non risponde, allora non vede. No, vabbè, probabilmente ci sarà un modo, perché anche cioè comunque fisiologicamente anche il daltonismo viene oramai diagnosticato, quindi non soltanto tramite il test che colore lo vedi. Quindi sì, però il daltonismo si può supportare anche dalle domande che puoi fare all'interlocutore. Per esempio, dice i cavalli vedono a fuoco solo la cosa che stanno guardando, un oggetto singolo, il resto attorno è sfocato. I cavalli hanno un problema che guardano con occhio per volta, tra l'altro, perché sapete che i cavalli, cioè, allora fisicamente vedono con tutti e due gli occhi, ma guardano con un occhio solo. Infatti, e come fanno a avere la tridimensionalità? Perché loro hanno praticamente uno spettro visivo che è molto ristretto rispetto a quella che è la strada davanti a loro. Cioè, avete presente i cavalli? I cavalli hanno un occhio da una parte e un occhio dall'altra, no? Quindi è chiaro che non possono averci 360 gradi una visione stereoscopica, no? Quindi se devono guardare a te in faccia, comunque girano la testa. Ci fate caso, il cavallo non ti guarda mai frontalmente. Quando ti fanno vedere il cavallo che ti guarda frontalmente è al cinema, perché addestrano il cavallo a stare in quella posizione. Ma in realtà io che con i cavalli ci abbiamo avuto a che fare, perché Matteo andava a cavallo, tu ogni volta che ti avvicinavi al cavallo, il cavallo per guardarti si gira di lato, o da un lato o dall'altro, perché chiaramente... Che poi è il motivo per cui gli mettono i paraocchi. Esatto. Infatti alcuni cavalli è indispensabile, perché come vedono l'uscita al lato, perché comunque per loro il lato è la cosa... Cioè loro hanno sta visione periferica praticamente, però anche molto ristretta, e alla fine loro vedono l'uscita, alcuni hanno la tendenza a scappare. I cavalli sono strani come visione, insomma, sono particolari. Vabbè, oltre ad essere degli animali bellissimi, ma secondo me anche un po' stupidi. Cioè il cavallo è un po' stupido, secondo me, cioè poraccio. Ma tanti animali i burini sono stupidi. Anche l'uomo. A volte sì. Perlomeno qualcuno, non necessariamente tutti. Sicuramente quelli che si assembrano quando sotto il periodo di pandemia. Sentiamo che dice Girasole, perché sapete che lei è. Vedono, so. La dispensatrice di Air Grey che mi avete raccomandato, ma esatto, che non ha il negozio online, purtroppo. Esatto. No, per Buccio, ora no, guarda, se tu riesci a creargli un negozio online, io non faccio, cioè io vi posso consigliare i tool, però lato sviluppo web. Vabbè, lo posso fare io, raga, scusate. Bravo, Walter. Tanto paga Gualdi, no? Assolutamente no, paga in te. Io gli configuro una VPS per far girare Magento e tu gli fai lo stesso. No, per due te Magento, facciamo no, WooCommerce. Dai. Ma che cosa è Magento è arrivato quest'altro? Vabbè. No, Magento, vabbè. Va bene. Ragazzi, Walter. Ci siamo fatti un'ora e mezza, che dite? Ah sì, dai. Io stasera c'ho la pizza. Io credo che la ordino qui di fronte, perché credo che saranno disponibili. Ma te la portano? E dovrebbero. Si trovano a metà strada, dai. Okay. Però chiamano Amazon per portarti la pizza. No, comunque i delivery del Monterotondo funzionano, perché noi l'altra volta ce la siamo fatta portare la pizza, quindi tranquilli. Comunque in Girasole conviene con me che sono assolutamente belli ma stupidi. I cavalli sono un po' stupidi, sì, purtroppo, ma non è colpa loro, eh. Che c'è questa striscia cerebrale qui tutta stretta. Bene, Walter, è stato un piacere come sempre. Ricordiamo varie cose. Ricordiamo che domani pomeriggio alle ore 17 c'è Michela che torna con Mono, la sua trasmissione musicale, che l'altra volta è piaciuta tantissimo. Ci ha avuto pure insomma un discreto successo, un'oretta e passa di musica, insomma, e chiacchiere, che sta sempre bene. Lunedì sera invece alle 21.30 vi ricordo che faremo un collegamento con il Regno Unito, e quindi parleremo insomma con gente che, con una persona che sta a Leeds e una persona con che il sta Fregno Unito. Col Fregno Unito, esatto. E mercoledì, poi vabbè, vediamo, sai, però mercoledì poi c'è lo specialone di Picard, quindi insomma non ve lo perdete, perché sarà veramente interessante sentire tutti questi interessanti e appassionati opinionisti cosa avranno da dire su questa serie televisiva. Che parleremo di come Riker fa la pizza. Esatto. Fatto, io e Walter stamattina abbiamo fatto delle considerazioni che poi epiche. Mi è venuta molta fame. Esatto. Infatti, vabbè, la ragazzi, pizza stasera per quello la sono fatta fare da mia moglie. Grande, vabbè, grande. Fatemi salutare tutti gli amici che ci hanno ascoltato quest'oggi: Lucio Prantone, Girasole, Pier G, Lobby Frontali, Gianluca Sansò, Davide Gatti. E scorro ancora la nostra bella chat. Lucio Prantone forse l'ho già salutato. E Roberto Tomaiolo, vi assolutamente. E tutti quelli che pavidamente non lo ammetteranno mai. I nostri ascoltatori stand. Pizzi, vuoi salutare? Ah, ma scusa, io pensavo che avevi chiuso, che avevi effetto. No, pensavo che c'era la chiusura effetto con la sigla che è. Noi stavamo in silenzio aspettando che ci dicevi che basta, era finita. Troppo raffinato. C'è ragione. Quindi ciao Walter, ciao Marco, ciao Puccio, ciao a tutti quelli della chat. Ci vediamo. Ciao, io vi saluto. Allora, gli ultimi aggiornamenti qui è giusto, tutto quanto tranquillo, e quindi penso che per oggi possa andare bene così. Perfetto. Ok, io vado, che c'è mia moglie che ha preparato il tiramisù. Ciao a tutti, bacioni e alla prossima puntata. Ciao. Ciao.